Io voglio bene a quelli che mangiano i dolci, quelli fatti bene con le farine integrali, gli zuccheri ieri dentro. Ieri ho fatto una crostata. Nel pomeriggio ai giardini. Non ce ne potrà essere un'altra perché non ho pesato nulla. Questa è una donna intuitiva, eh? Però ieri sera, insomma, ha avuto grande successo. Esatto. Un sedano, 100 grammi di sedano, sono 16 calorie. Già solo per portarlo alla bocca, pulirlo e masticarlo, una ne ha consumate 32. Un altro ormone simpatico, la gente ride sempre, si chiama glucagone quando lo segnalo, però si chiama così, non posso farci nulla. Tutto la danno a me. Buongiorno e complimenti, la puntata di oggi è veramente splendida. Anche con le insalate mi avete fatto venire appetito. Grazie Paolo. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dice una leggenda che una notte se nel cielo ci sarà. Leggende. Noi oggi parliamo di leggende metropolitane, rimedi della nonna, a cui crediamo, a cui facciamo ricorso per continuare a stare bene o per recuperare benessere. Faccio qualche esempio: le fette di patata cruda per le scottature solari, caffè e limone contro il mal di testa, il chiodo di garofano per il mal di denti, il pediluvio con acqua e sale per le gambe stanche. Chi di noi, diciamoci la verità, non ha fatto tesoro della saggezza popolare? Qualche volta è andata bene, molto bene, e a dire il vero, in molti casi la scienza ha confermato quello che in tempi non sospetti le nostre nonne suggerivano e raccomandavano. Allora, avete un consiglio, un rimedio infallibile da condividere con noi? Iniziate a chiamarci all'800 24 00 24. Di questo parleremo per la parte di cuore. Invece, nell'ultima parte della trasmissione dedicheremo la pagina di denari alle nostre case, che a volte hanno bisogno di essere risistemate, ristrutturate con dei lavori importanti che spesso richiedono anche un considerevole impegno finanziario. Come sapete, perché ne abbiamo parlato spesso insieme a Deborah, ci sono dei bonus fiscali che possono alleggerire un po' queste spese, ma bisogna cogliere l'attimo per approfittarne, perché non dureranno ancora per molto. E allora noi torneremo a fare il punto con il nostro esperto nella seconda parte di questa puntata. Intanto, numero verde 800 24 00 24, raccontateci se proprio quest'estate sarà per voi il momento in cui avete deciso di fare i lavori di ristrutturazione, in cui progetterete come ristrutturare la vostra casa. La nonna Maddalena è rotonda come l'una piena, è nigra. E chissà se anche la nonna Maddalena, di cui cantava Mina, per le scottature da forno consigliava il ghiaccio o il burro, e per i denti bianchi salvio bicarbonato, e per il pupo che non dorme tiglio, camomillo, latte tiepido. Parliamo, come anticipato, dei rimedi della nonna, ricette e consigli che si tramandano di nonna in nonna, di famiglia in famiglia, e che sono arrivati sino a noi tra scetticismo e conferma della scienza. Voi li utilizzate? Ne avete un infallibile, quello che consigliate anche ad amici e colleghi, oppure pensate che abbiano ormai fatto il loro tempo? Chiamateci 800 24 00 24. Intanto saluto la dottoressa Giovanna Luini, senologa e scrittrice ed esperta di medicina integrata, che è tornata a trovarci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa Luini, per i rimedi della nonna lo scetticismo è lecito, ma io mi dico, se questi consigli sono arrivati fino a noi, significa che più di una persona ne ha testato e comprovato l'efficacia, no? Sì, sì, questi rimedi della nonna in media sono frutto di sperimentazione, un medico direbbe è l'osservazione empirica ripetuta più volte. Io sono sempre molto attenta prima di escludere che un rimedio della nonna sia proprio frutto di sia utile. Secondo me vanno sperimentati. Quando sento qualcosa lo provo e poi giudico. Per esempio, guardare nell'olio quando c'è l'orzaiolo, il calazio, funziona. Poi sai, se mi chiedete perché, non lo so, però funziona. Quindi, per non banalizzare, il rimedio della nonna nasce da qualche parte, da una tradizione, da sperimentazione, soprattutto nasce da tempi nei quali la scienza è un po' meno ricca di possibilità. Allora, prima di buttare via la nonna, secondo me, non buttiamo via la nonna. Teniamo teniamo anche il rimedio. Spesso però questi rimedi popolari vengono bollati un po' come frutto di superstizioni, false credenze che non hanno alcun fondamento scientifico, per cui in tanti casi si invita state alla larga. Tuttavia, come spesso accade, non è sempre così. Avviene allora che molti dei rimedi popolari o della nonna siano rivalutati anche dalla scienza e ritenuti efficaci. Insomma, la scienza conferma quello che le nostre nonne avevano in qualche modo intuito. Possiamo fare qualche esempio? Ma sì, intanto un esempio eclatante è l'uso del mirtillo, il succo di mirtillo, l'estratto di mirtillo per la cistite. In Italia si usa moltissimo l'antibiotico per la cistite, non sto dicendo che non serva, ovviamente in alcuni casi serve, però esistono paesi stranieri e molto i paesi nordici del nord Europa che usano il mirtillo più che l'antibiotico. Questo è un esempio, il succo di mirtillo senza zucchero, l'estratto di mirtillo, arriva dalla cosiddetta tradizione della nonna, in realtà cura la cistite, per esempio, ed è vero. La mela con i chiodi dentro, ovviamente non posso prendere dei chiodi arrugginiti, metterli in una mela e mangiare. Però il concetto del veicolare, il ferro contenuto nei chiodi lasciati per un po' dopo che sono stati sterilizzati dentro la mela, è un concetto vero. La mela contiene alcuni elementi che favoriscono l'assunzione di quel ferro lì che arriva dai chiodi. Quindi la mela chiodata. La mela chiodata. La mela di Biancaneve. Però esistono. Allora, lei è pronta a dare il suo contributo oggi suggerendo dei rimedi della nonna che sono stati, hanno un po' il placet della scienza, cioè hanno una ragione, ma nello stesso tempo anche dare il suo parere sui rimedi che i nostri ascoltatori ci suggeriranno all'800 24 00 24. Allora, Clara ci scrive da Milano, ci manda un sms, vi ricordo il numero è 349 238 6666. Dice: da diversi mesi al mattino bevo acqua calda con succo di limone e un cucchiaino di bicarbonato. Potete darmi il vostro parere riguardo a tale beveraggio? Il bicarbonato non l'ho capito. Nemmeno io, però anche perché non c'è molto bisogno di bicarbonato se si beve l'acqua con il succo del limone. Bere acqua e limone, bere un limone al giorno è sicuramente salutare, soprattutto la mattina. Questo si sa ed è stato spiegato mille volte. E c'è stato anche quello studio molto interessante, mi sembra che abbiano fatto il limone di Sicilia con il Mario Negri, che sottolineavano appunto le virtù della dieta del limone, intesa come spremuta di limone, per una prevenzione dei calcoli renali. Assolutamente, ma anche perché noi siamo convinti, visto il sapore, che il limone sia acido, ma non è così. È uno degli alimenti che più combattono l'acidità, quindi limone è molto salutare. L'aggiunta del bicarbonato francamente mi lascia un po' perplessa. Proviamo senza bicarbonato. Proviamo senza, infatti. Ad esempio invece il kiwi, che mette a posto l'intestino al mattino a digiuno, è vero o falsa? Beh, il kiwi aiuta, l'intestino è aiutato dal kiwi, però si fa dare una mano. Ecco, diciamo che io insomma su un eccesso di questi rimedi sono un po' scettica. Finché stiamo sul limone, il limone ha un suo senso. Il kiwi è, come tanti altri frutti, utile a tante persone. Ecco, non lo prenderei come un'abitudine quotidiana, a meno che non piaccia. Anche perché, come voi insegnate, deve essere un po'... ci sono i semini, ci sono tante questioni. Allora, noi abbiamo in linea Pier Mario da Torino. Buongiorno Pier Mario. Ma lei è il Pier Mario Pier Mario? Sono io, sì. No, Pier Mario, l'over 50. Sì, con del 5 kg reality. Meno. 5 kg meno. Fantastico. Allora, faccio solamente una breve intro su di lei. Pier Mario ha partecipato al nostro reality Cuore Denari Expo. Dottoressa Luini, lei è andata a vedere le nostre pagine, immagino, ed è abbinato ad Attilio Speciani, che abbiamo avuto il piacere di avere ieri, e ad Andrea Ribaldone, e Pier Mario si è sfilato. Pier Mario, parli lei, che noi ieri abbiamo parlato del libretto del dottor Speciani sul metabolismo e siamo stati sommersi da richieste. Posso solo dire che ho scoperto quello che cercavo, e oltre all'alleggerimento c'è tutti gli altri vantaggi ed effetti positivi. Ecco, pensa, un uomo che dice, se fosse una donna, ho trovato in lei tutto quello che cercavo, magnifico, lui l'ha trovato in Attilio Speciani. Pier Mario, ma noi oggi parliamo dei rimedi della nonna, o sì. Che leggende metropolitane, credenze, mi dica lei. Lei allora, ne ha qualcuna da suggerire? Sì, io da sempre utilizzo degli antinfiammatori esterni naturali, naturalissimi per tutti i bubù da traumi atletici, infiammazioni e malanni vari. Mm. Il primo è l'argilla verde in impacchi, quindi la cataplasma di argilla verde sulla parte dolente. Sì. Il secondo rimedio è la foglia di cavolo verza applicata sempre sulla parte dolente. E il terzo rimedio, molto, come dire, particolare, è il grasso di maiale, che anche lui ha un effetto estremamente notevole su tutte le infiammazioni. Quindi lo usa un po' come il balsamo di tigre, invece sì, lei usa il grasso di maiale, sì. Andrea ride dalla regia, ma ecco, io sul grasso di maiale Pier Mario, non lo so, non metto in dubbio, ma ecco, invece sull'argilla e sulle foglie di cavolo che funzionano e vengono molto utilizzate. Ma anche perché l'applicazione esterna di antinfiammatori, cioè di farmaci antinfiammatori, è utilissima per tante persone con patologie reali, quindi va benissimo. Però deve essere considerata con un po' di cautela, a volte c'è l'abuso. Sono d'accordo con questi rimedi. Il grasso di maiale, confesso che proprio non lo conoscevo. Ti ha stupito con effetti speciali, Pier Mario. Grazie, un abbraccione, grazie. Prego, per essere intervenuto. Continui a seguirci, andiamo a Valerio da Roma e poi a Gabriella da Milano. Valerio, buongiorno, che cosa ci propone? Buongiorno a lei, vi posso proporre tre casi di medicina popolare che però sono noti molto spesso come diciamo rimedio della nonna, uno dei quali è stato di fatto validato dalla scienza e due dei quali invece purtroppo si sono rivelati pericolosissimi. Bravo, perché noi oggi vanno citati come cose a cui non dare accuratamente retta. Cominciamo con la nota positiva. Una credenza di medicina popolare molto, molto diffusa nella sociaria e anche in altre regioni tradizionali italiane dell'interno è che un rimedio per l'ulcera gastrica consiste nel fare quello che sembra apparentemente un atto di tipo magico, proviziatorio, cioè prendere una lumaca viva di buone dimensioni, e stiamo parlando di una lumaca, non di una chiocciola, quindi quelle senza guscio, e dopo averla appena un pochino pulita dai residui di foglie che probabilmente avrà appiccicati addosso, deglutirla con un po' d'acqua. Uno studio dell'Università di Boston ha validato questa cosa perché ha scoperto che in quelle condizioni la povera lumaca, una volta finita nello stomaco, aggredita dai succhi gastrici che sono prevalentemente a base di acido cloridrico, per tentare di difendersi secerne una quantità abnorme del suo muco, e il suo muco contiene un enzima straordinariamente efficace come antinfiammatorio e ha delle proprietà lenitive dell'attacco di ulcera realmente efficaci, tant'è che adesso la cosa viene studiata per vedere se può essere poi dopo trasformata in un farmaco. Ad esempio, una volta io avevo sentito che la famosa bava di lumaca, dottoressa Luini, viene utilizzata anche in estetica, adesso non proprio la bava, come lenitivo della tosse, come antirughe. Mentre i due rimedi che invece non bisogna utilizzare perché sono pericolosi. Nel modo più assoluto mai, ci sono due credenze molto diffuse che sento citare molto spesso purtroppo da persone anziane e troppi ne sono morti dandogli retta, e cioè la prima che un test per identificare un fungo velenoso sia quello di posarci sopra e tenerlo a contatto per un minuto o due un cucchiaio di argento e se il cucchiaio d'argento si annerisce il fungo è velenoso, altrimenti si può mangiare. Ecco, questa è una bufala. Grossolanamente falso. La manita muscaria, il funghetto dei nani, che è velenosissimo, non annerisce il cucchiaio d'argento. E la seconda della stessa categoria coinvolge di nuovo le lumache, e cioè le lumache non mangerebbero i funghi velenosi mortali. Purtroppo non è vero, la manita phalloides io personalmente nei boschi molto spesso la trovo mangiucchiata da lumache che non trovo stecchite all'intorno. Quindi grazie Valerio per questi tre rimedi, anche soprattutto per questi molto pericolosi. Valerio è un tecnico, però non ce l'ha detto, vero Valerio? È un tecnico in che senso? Nel senso che lei è un addetto ai lavori. Sono un giornalista scientifico. Ecco, grazie Valerio. Allora, ciao, per, grazie per essere intervenuto. Posso, se posso però fare un commento, sì. Probabilmente è vero, non ho dubbi che la bava di lumaca funzioni. Ecco, però sottoporre una lumaca a tale trattamento e soprattutto, insomma, in qualche modo legittimare il consumo di lumache crude mandate giù per l'ulcera, non mi trova proprio d'accordo. Ci sono altri metodi. Sì. Allora, dottoressa Luini, molte delle nostre scelte sono dettate da convinzioni di cui non si conosce però l'esatta origine, ma tant'è che nel tempo si sono radicate. No? Ad esempio, le nostre nonne ci facevano, le mamme anche, ci facevano mangiare il pesce perché è ricco di fosforo. E per il fosforo avrebbe avuto il potere di renderci addirittura intelligenti. Sicuramente l'hanno raccontato anche voi, ma io lo chiedo anche al nostro amico che è in linea con noi, Marco Bianchi. Ciao Marco, divulgatore scientifico. Ragazzi. Devo Ciao. Aggiungere la qualifica di Marco Bianchi. No, perché Marco Bianchi è Marco Bianchi. Quanto pesce hai mangiato per essere diventato così intelligente? È così bello. È così bello. Buongiorno, a me hanno dato il pesce sbagliato. Ma no, ma smettiamo. Dai, ma Marco, smettiamo. Allora. Buongiorno. Sappiamo che bello sentirvi. Senti, l'hai sentita anche tu quella del fosforo? E... Sì. Allora, si racconta tanto, in effetti, della classica cosa anche che dicono le mamme ai propri figli: mangia il pesce perché diventi più intelligente, perché assolutamente contiene fosforo. Innanzitutto, diciamo che l'intelligenza, o comunque parte di questa. Diciamo, del risveglio cerebrale, chiamiamolo anche così, è anche e soprattutto dato dagli omega 3, oltre che dal fosforo. Quindi non è solo il fosforo che contribuisce, anche perché il fosforo lo troviamo ben l'85% si ritrova insieme al calcio sotto forma di una serie di sostanze, ma dove lo ritroviamo? Alla fine in tutte le nostre strutture, come possono essere le ossa, anche i denti, quindi è veramente un alimento, un minerale molto importante per la nostra salute. E sì, insomma, nel pesce è presente, però non soltanto lì dentro. Io con voi volevo fare infatti questo... Infatti, un domandone, che l'abbiamo già lanciato un po' su Twitter, visto che molti stanno anche aspettandolo. E la mia domanda è questa, quindi. Vi elencherò tre alimenti che contengono ovviamente fosforo. Dovrete dirmi quale di questi tre alimenti ne contiene in assoluto di più. Abbiamo, pronti? Abbiamo. Siamo tutti attenti, vai. Perfetto, pinoli, merluzzo, pomodori essiccati. Sono tre alimenti che nella mia cucina sono molto spesso presenti, perché mi piace combinarli in vario modo. Sapete che la mia è una cucina molto funzionale, quindi per l'appunto sono presenti alimenti che hanno una loro funzionalità e ci regalano quindi il massimo del benessere. Allora ricordiamo, gli alimenti sono pomodoro secco, merluzzo o pinoli. Quale di questi tre alimenti contiene più fosforo? All'800 24 0024 iniziate a prenotare il vostro intervento per dare la risposta corretta. Al primo ascoltatore che ci darà la risposta esatta arriverà a casa un libro scritto a quattro mani dalla dottoressa Luini e da Marco Bianchi, che si intitola Le ricette della dieta del digiuno, edito da Mondadori. Marco, ma tu poi tornerai a darci la risposta giusta o devi Ah, perfetto. Allora, noi puoi rimanere con noi, che così continuiamo a parlare di rimedi popolari, credenze, leggende metropolitane. Anch'io ne ho uno di questi rimedi popolari, che però in effetti scientificamente poi è stato anche provato, perché la famosa acqua calda con un po' di miele e limone, che la nonna in qualche modo mi consigliava sempre, è in effetti poi stata scientificamente appunto provata grazie proprio ai mille benefici che ha il miele, che ha la vitamina C, di cui appunto ne è ricco il limone. Quindi alla fine in effetti possiamo realmente in maniera anche intelligente, insomma, farci del bene con quelli che sono i rimedi che un tempo ci accompagnavano, e quindi... Perché no? Allora Alberto ci scrive: dopo una giornata di sole sulla neve, le patate a fette sugli occhi, che non erano stati protetti dagli occhiali, sono stati efficacissime. Mandiamo a Gabriella che ci chiama da Milano. Poi invece vi voglio dare anch'io il mio rimedio della nonna, che anche lì è stato provato dalla scienza. Gabriella, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Buongiorno Gabriella. Mi veniva in mente, sentendo parlare di questa acqua di cui parlava Bianchi, che anche la mia nonna mi dava l'acqua dulsa, che l'acqua dulsa era proprio un goccino di acqua calda e rimediava tutto. Vede? Fantastico. No, invece chiamavo per la mela chiodata. Sì. E dunque, mi ha salvato, io ho sempre avuto il ferro un po' bassino, così come la pressione, e soprattutto quando ero incinta avevo proprio le pile scariche. Allora, me lo ha consigliato un medico, tra l'altro, quindi, perché il ferro acquisito con le medicine, in realtà, adesso poi qualcuno mi aiuterà dal punto di vista scientifico, però non viene trattenuto bene dall'organismo, oppure pesa troppo sul fegato, e infatti io non lo digerivo, questi fialoni di ferro che mi facevano prendere non li digerivo. Invece, ha provato la mela chiodata, quella che allora, io dico, la mela chiodata di Biancaneve, a cui accennava già la dottoressa Luini. Ecco, ha avuto effetto. Allora, efficace. Mela, si prende una mela, si prendono una decina di chiodi, proprio quelli del carpentiere, che devono essere di ferro, non in acciaio inossidabile, ovviamente. Lì si mettono alla lavastoviglie, si disinfettano, così si toglie tutte le paure che possono essere inquinate di qualcosa, si infilano dentro nella mela. Si mette la mela nel frigorifero una notte, la mattina dopo si tolgono questi chiodi, si mettono in un'altra mela che andrà di nuovo nel frigorifero e si mangia quella mela lì. E ha lasciato delle piccole tracce scure che è proprio il ferro, e quel ferro lì è fantastico, tira su. Grazie Gabriella. Dottoressa Luini, la mela chiodata va molto? Funziona, però vorrei chiedere a Marco, che è ancora in linea, se ci sono soluzioni un po' meno indaginose per assumere ferro. Non c'è Marco più. È già caduto? Ma noi lo riprenderemo okay. Sulla pagina Facebook. Allora, avremo Gaetano che ci chiama da Bari, ma io avrei anche i mercati. Gaetano, è rapido o mi accompagna? Sì, però niente, se iniziamo col silenzio, allora andiamo ai mercati. 800 24 00 24, ricordate il domandone di Marco Bianchi: quale di questi tre alimenti contiene più fosforo? Pomodoro secco, merluzzo o pinoli? Riceverete a casa le ricette della dieta del digiuno Mondadori, scritto da Giovanna Luini e Marco Bianchi. Noi ci sentiamo tra poco, subito dopo i mercati, per continuare a parlare di rimedi popolari. Cuore e denari. Perché tutto cambierà, cambierà per ogni vita che nasce. Tutto cambia anche e soprattutto quando siamo noi a decidere di cambiare. A volte questa decisione può riguardare anche la nostra casa, perché c'è bisogno di rimetterla un po' a nuovo, perché vogliamo proprio rivoluzionarla. Certo, decidere di mettere mano alla nostra casa può cambiare anche un po' lo stato del nostro portafoglio, perché insomma costa. Per lavori di ristrutturazione e di miglioramento energetico, lo sapete, però ci sono i bonus fiscali che non dobbiamo lasciarci scappare. Noi torneremo oggi a riepilogare il loro funzionamento nella pagina di denari, quindi se avete in previsione qualche ristrutturazione, 800 24 00 24, approfittatene per chiedere al nostro esperto come approfittare di questi bonus. Credici un po', mette insieme un cuore, prova a sentire. Allora, non potete crederci, ma è a parte che la dottoressa Luini qua balla, qua non c'è più, insomma, i medici niente non sono più veri, quelli di una volta. Non potete crederci, ma è tornato Marco Bianchi. Marco, eccolo lì. Sono qua. Perché è anche a chiapparlo. È anche un medico, la dottoressa Luini, è un medico che ha il cuore, questo va aggiunto, perché purtroppo non per tutti è sempre così, però è bello per quello. Senti, e Marco, e poi ha fatto breccia nel cuore dei nostri ascoltatori, perché per la difesa alle lumache. Ma sì, dai, come si fa a mandare giù una lumaca viva per cui no, guarda, non lo condivido neanch'io quello. Ecco. Non volevo intervenire, non volevo essere, perché sennò poi... Marco, ma prima parlavamo della mela chiodata per l'assunzione del ferro, no? Allora ti ho chiesto, non sapendo che non fossi in onda, ma lui era caduto, era andato a fare la mela chiodata. Esatto, se ci spieghi magari un altro metodo per assimilare, per rialimentare il ferro senza dover chiodare delle mele. Sì. Premesso che ovviamente funziona, quindi sì, insomma, ci siamo. Ad ogni modo, l'ideale sarebbe quello di spremere il succo di un limone in ogni nostro pasto, nell'acqua. Lo spremiamo nell'acqua, quindi berremo un'acqua gassata, naturale, leggermente aromatizzata, quindi al limone. Perché noi dobbiamo sempre stare molto attenti ad assimilare il ferro, anche vegetale, attenzione, perché anzi resta comunque biodisponibile tanto quanto l'altro, quello animale, però dobbiamo sempre assumerlo contemporaneamente a della vitamina C. Okay. Vitamina C che è presente nella scorza degli agrumi per ben 4 volte la quantità del suo succo, quindi nel limone ad esempio, impariamo a condire, ovviamente parliamo di limoni non trattati, certo. Usiamo anche la scorza, 4 volte tanto la vitamina C è presente rispetto al suo succo del limone stesso. Okay. Ecco, non ci piace aromatizzare appunto il nostro piatto con del limone, con della scorza, allora magari spremiamo il nostro limone all'interno dell'acqua. O in alternativa, ricordiamo anche che un peperone crudo, ad esempio, una porzione proprio di peperone crudo sì. al giorno, ci soddisfa la vitamina C che abbiamo bisogno per quella giornata. Quindi, insomma, abbiamo tanti, la natura ci offre tantissime opportunità. Ad esempio anche i ravanelli sono ricchi di vitamina C. I ravanelli, i kiwi, abbiamo veramente un paradiso, la vitamina C è molto presente in tantissimi alimenti. Per fortuna, quindi, perché è una vitamina sì. amica. E di ravanelli molto. Vuole parlarci Gaetano, che ci chiama da Bari, per suggerirci un altro rimedio della nonna. Buongiorno Gaetano. Buongiorno. Scusate l'emozione, io sono troppo emozionato. Ma no, Gaetano. Grazie. Io sono di una famiglia molto numerosa di Bari, classica famiglia del sud, dove mia madre, praticamente, che ha comunque 22 nipoti, usa ancora dare ai nipoti in un bicchiere il succo di ravanelli con zucchero quando hanno la tosse. Quindi ravanelli con lo zucchero per curare la tosse, funziona? Sì, praticamente lei funziona. Io a me lo dava quando ero molto piccolo. Non ricordo se funziona veramente. Infatti lo dava anche a mio padre, che è morto di Alzheimer. Prima che moriva continuava ancora a dare sì. questo succo di ravanelli quando mio padre c'aveva un po' di tosse. E questo ce lo mettiamo da parte. Di solito la tosse è un problema, no? È un malanno autunnale, invernale, e i ravanelli non ci sono, ma se vi viene una tosse in questa, perché magari una botta di aria condizionata, di una infreddatura, provate il rimedio del ravanello con lo zucchero. Io so che Marco Bianchi alla parola zucchero storcerà un po' il naso. Marco, non hai sentito, vero tu? No, non ho sentito perché è andata via un po' la comunicazione. però posso confermare, perché tutto il mondo in generale delle brassicacee, quindi anche in questo caso tutti gli solfuri, quello che un po' puzzacchia, come può essere dalla cipolla, il ravanello, ci aiutano durante anche gli stati appunto di congestione nasale, e abbinati insieme alla vitamina C, che già contengono un po' di miele, vengono fuori questi sciroppi naturali che aiutano davvero molto a rimettersi in forma. Bene, continuate a chiamarci, a scriverci, a suggerire il vostro rimedio naturale, a chiedere magari ai nostri esperti la veridicità, se funzionano davvero. Ma dottoressa Luini, stavo pensando che ci sono poi delle credenze sì. che sono dettate un po' dalla paura, dal timore di affrontare la verità, sì. insomma, creiamo una scorciatoia, una via di uscita per non affrontare, che so, un controllo. C'è chi, ad esempio, no, magari si inventa una rassicurazione perché non vuole andare dal medico. Sì. Vero. Sì. Per cui si dice: allora, mio nonno diceva, oppure il mio zio che è amico sì. di un medico, o il mio amico che lavora in ospedale mi ha detto che non c'è da preoccuparsi, se perché noi donne poi noi siamo donne ne inventiamo bravissime. Tantissime. Per esempio, se non fa male niente vuol dire che si è sani, oppure la peggiore di tutte: da 1 a 4 sigarette al giorno non fanno male perché è come non fumare. Questa è una bestialità pericolosissima. Quando si sta facendo una terapia bisogna mangiare tanto e stare a riposo. Queste sono cose non vere che diventano anche abbastanza oppure molto pericolose. E per questo, per esempio, nel caso della donna e nel caso della cura del seno, abbiamo scritto, e Marco conosce bene questo ebook, Se non lo sai, che è un ebook che costa 99 centesimi, perché in realtà doveva essere un dono per tutte le donne, in cui Alberto Luini, che è il direttore del programma Senologia dello IEO di Milano, risponde a tutte le domande, anche le più banali, apparentemente banali, che riguardano il seno. Per esempio, posso farmi i massaggi se ho avuto una malattia al seno? Posso farmi la tinta ai capelli? E il senso di questo ebook è andare a sfatare anche i falsi miti. Se prendo il sole mi viene il cancro al seno. Questo è un falso mito ed è anche pericoloso. Perché anche in realtà, della gravidanza, sì. Oppure, c'è chi dice la gravidanza fa venire il tumore. Sono tutte cose non solo false ma anche pericolose. Pensiamo banalmente a chi non prende mai il sole e ha un problema di osteoporosi. Sì, in qualche modo si nega la possibilità di produrre una buona dose di vitamina D, per non parlare del fumo di sigaretta. Sappiamo benissimo che anche una sola sigaretta, nel caso soprattutto della donna, è molto pericolosa perché aumenta il rischio di morte. Insomma, ci sono falsi miti che vanno presi con un po' più di serietà, e Se non lo sai è un ebook che si trova in tutti gli store online e che in qualche modo tenta di spiegare la verità. Insomma, con 99 centesimi sì, ci togliamo la paura. Come dice. Allora, Marco, abbiamo i nostri ascoltatori che si sono candidati per rispondere al tuo quizeton. Vuoi iniziare a sentirli? Spilla su questo Se non lo sai, perché va bene per le donne, ma io non sono una donna, l'ho letto e consiglio anche a tutti gli uomini che sono vicino alle donne di poterlo scaricare e di leggere. Grazie. Questo volevo aggiungerlo perché la cultura è aperta a tutti, in questo caso anche le paure appunto da sfatare, quindi... Grazie Marco. Allora, ho avuto il piacere di scrivere la prefazione di questo ebook particolarmente a cuore. Lo so. Marco, tu vorresti sentire un rimedio oppure le risposte al tuo quizzettone? Dato che tu sei ormai in questo momento sei un po' l'uomo della trasmissione, no? Scusate, le voglio sentire entrambe. Allora, iniziamo con Marco da Bologna che ci dà la prima risposta al quizzettone. Marco, buongiorno. Eccolo qua, buongiorno. Eccolo. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Ci Io racconti, credo Marco? Sia il merluzzo la risposta. Del prodotto che contiene maggior fosforo. Allora, pomodoro secco, merluzzo, pinoli, e Marco dice merluzzo. Sì. Marco mio, cioè Marco Bianchi, che dice? Ci ha preso? E non ci ha preso, no, perché dobbiamo dare la risposta giusta. Carino Andrea Roccabelli, ci ha messo dalla regia il sonoro. No, non ancora, non diamo ancora la risposta giusta. Okay. Però grazie Marco per aver partecipato al nostro quizzettone. Ascolti che tra poco arriverà la risposta esatta. Ci facciamo una breve pausa con Roberto da Genova, che intanto ci suggerisce il suo rimedio, così intanto gli ascoltatori possono continuare a intervenire e far andare, non so, la testa per cercare di rispondere a questo quizzettone. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi e un'allegra giornata a tutti. Senta, il mio rimedio è per l'infiammazione, un'infezione sottocutanea, un ascesso o qualcosa del genere, e consiste nel fare una poltiglia di foglie di acanto e fare un impacco che dovrebbe durare per tutta la notte. In domani mattina l'ascesso è sparito. Senta, ma foglie di acanto, adesso bisognerà mettere... Che poeta, bellissimo. Mi dica, Roberto, mi aiuti, bisogna mettere la foto di questa pianta? Beh, è quella che è stata presa per... È quella che è stata ripresa nei Capitelli Corinzi. Fantastico. Bellissimo. Allora, foglie di acanto si pestano, si mettono in una garzina, si tengono tutta la notte. Roberto, capito? notte, esatto, e voilà. Anche l'ascesso dentario, anche una, tutto sparisce, un per un'iniezione. Si può fare anche un impacco tutto. Di foglie di acanto, appoggiarlo sopra le persone sgradevoli, chissà se spariscono anche loro, ma noi non ne abbiamo di persone sgradevoli intorno. Grazie Roberto, andiamo alla, alla risposta di Marcella che ci chiama da Padova. Marcella, buongiorno. Buongiorno a lei. La sua trasmissione mi piace molto, purtroppo non riesco sempre ad ascoltarla. Può sentirla in podcast, Marcella. Lo so. Sì, per cui la ringrazio comunque per i complimenti. Spero che lei abbia la risposta corretta, Marcella. Non lo so. Vediamo, c'è Marco Bianchi che ci... Io dico Pinoli. Marco, Marcella ha detto Pinoli. E Marcella ha vinto. Brava Marcella. Brava. Allora, abbiamo i pinoli che contengono infatti più del doppio praticamente di fosforo contenuto nel merluzzo, e nella via di mezzo tra i due abbiamo comunque i pomodori secchi che sono quindi un'egregia fonte di fosforo da poter utilizzare. Ma e quindi se noi ci facciamo una specie di insalatina con merluzzo, pomodori secchi tagliati e una manciatina di pinoli, ma come diventiamo, Marco? intelligenti e soprattutto aggiungo anche con tanto ferro e vitamina C contemporaneamente. Fantastico. Perché abbiamo veramente un insieme di tutti i nostri nutrienti che possono servire per la salute. Quindi brava Marcella che... Allora Marcella riceverà a casa il libro di Marco e della dottoressa. Le ricette della dieta del digiuno, vorrei rassicurarla perché le ricette sono di Marco, io mi limitavo a mangiare. Quindi... Va bene, allora grazie Marco Bianchi, grazie. Grazie a voi, un abbraccio a tutti voi. Grazie Marco, torna presto. Dottoressa, tornerà? Certo, subito. L'aspettiamo. Grazie. Grazie, buona giornata. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Torniamo subito, subitissimi insieme. Qua in studio con me c'è già Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, un nome e una garanzia che ci farà capire tutto quello che dobbiamo sapere e ricordare per i bonus fiscali per la ristrutturazione tra poco. Cuore e denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era. Beh, una casa molto carina, accogliente, è questione di cuore ma anche di denari. Sappiamo quanto possono costare dei lavori in casa, ma sappiamo anche che ci sono dei bonus che per fortuna ci vengono in aiuto. Una restituzione tramite sconto sulle nostre tasse, sull'IRPEF del 50% per i lavori di ristrutturazione e del 65% per i lavori di miglioramento energetico di un immobile. Qualcuno potrebbe aver deciso proprio in questi giorni di ristrutturare la propria casa e finora può averne sentito parlare solo di sfuggita, senza magari prestare la giusta attenzione. Non vi preoccupate perché siete ancora in tempo e soprattutto perché oggi a Cuore Denari torna a riepilogare tutte le informazioni principali. Numero verde 800 24 0024 per le vostre domande. Diteci che tipo di lavoro vorreste fare, sapete già più o meno quanto potrà costarvi e quanto avevate in programma di fare questa spesa, cosa, quanto e quando. Queste le tre informazioni che ci servono per dirvi se rientrate nei bonus e in caso contrario cosa fare per ottenerli. Anche i vostri messaggi al 349-238-6666. Ho detto tutto, Cristiano? Intanto ti risaluto per chi si fosse messo in contatto con noi solo ora. Abbiamo il piacere di avere Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Ciao Cristiano. Buongiorno a tutti. Ho detto tutto, manca qualcosa? No, le informazioni chiave ci sono. È bene ricordare che attualmente la scadenza è appunto al 31 dicembre del 2015, poi non è che dal 2016 queste agevolazioni spariscono, ma stante la disciplina attuale, poi abbiamo visto negli ultimi anni che ci sono spesso delle proroghe, ma stante la disciplina attuale dal 2016 diventeranno meno vantaggiosi, perché la percentuale si uniformerà e si abbasserà al 36%, quindi ogni 1000 euro spesi non ne potremo più scontare dalle imposte degli anni successivi 500 come nel caso del 50% o 650 come nel caso del 65, ma soltanto 360, sempre da dividere in 10 anni. Questo è importante dirlo perché il recupero avviene appunto in 10 anni per tutti i contribuenti. In passato c'erano state delle differenze, adesso la durata tutti è uniforme. Tutti uguali. Allora Domenico, buongiorno, ci chiama da Milano, mi piace quando intervengono subito. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno, un saluto a tutti. E mi chiedevo, io ho il suocero che entro la fine dell'anno deve ristrutturare il suo appartamento. E volevo chiedere, se non ricordo male, la cifra massima per quanto riguarda gli imposti è di 96.000 euro. E poi soprattutto volevo sapere se le riduzioni sono legate al reddito, essendo lui un pensionato, quindi ha una pensione un po' più del minimo, se ha qualche relazione oppure non è importante il reddito. Grazie Domenico. Cristiano. Allora, confermiamo intanto l'importo della spesa, che è 96.000 euro di spesa massima per quanto riguarda la detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie. Fino a questo totale io vado a scontare appunto il 50%, quindi chi spendesse il massimo avrebbe uno sconto delle imposte di 48.000 euro divisi in 10 anni, quindi 4.800 euro all'anno. Allora, per rispondere alla seconda domanda, dunque non c'è un legame diretto con il reddito, quindi quale che sia il tipo di reddito che ha il proprietario può comunque beneficiare della detrazione. C'è però un aspetto importante da tenere presente, che questa è per l'appunto una detrazione, cioè uno sconto dall'imposta. Vuol dire che io ne beneficio a patto di avere un'imposta da cui scontare l'agevolazione. Se io ho un reddito così basso da avere ad esempio 1.000 euro di imposta lorda e ho 3.000 euro di detrazione, porterò a zero l'imposta, ma 2.000 euro li sprecherò. Sì. Quindi nel caso del nostro ascoltatore può essere utile fare una verifica, che si può fare guardando l'ultima dichiarazione dei redditi o anche rivolgendosi a un commercialista, o un CAF, ma è una cosa che si può fare anche da soli. Diciamo che è importante andare a vedere nel caso del pensionato la voce imposta lorda. E poi, se ci sono già delle altre detrazioni, vedere magari l'imposta netta dall'ultimo 730 e capire un po' in base ai lavori che si andranno a fare, alla spesa che si preventiva di fare, se, come si dice in gergo, l'imposta è abbastanza capiente, cioè se non rischiamo di avere una detrazione più alta dell'imposta, perché in questo caso ne sprechiamo una parte. Allora, importante, mi scrive Max da Lucca, 96.000 più IVA? No, 96.000 tutto compreso. Ricordiamo che l'IVA è detraibile, però i 96.000 fanno riferimento all'importo complessivo delle fatture, per semplificare, che sono ovviamente sempre IVA inclusa. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di ristrutturazioni domestiche, sarà un IVA al 10%, ma noi dobbiamo prendere il totale già comprensivo di IVA. Ricordiamo anche, visto che ci siamo, che sono detraibili anche non soltanto la spesa dei lavori, ma anche le parcelle per eventuali professionisti, ad esempio l'architetto, il geometra. Esattamente, e anche eventuali oneri che si vadano a pagare al comune nel caso ci siano dei lavori che comportano il pagamento di costo di costruzione, oneri di urbanizzazione. Quindi così tutto, via. Mettiamo dentro tutto. Sostanzialmente sì. Tutto quello che è legato ai lavori di ristrutturazione, anche i costi, per così dire, di supporto. Vi piace insomma questa ultima parte dell'esperto risponde, un po' come facciamo con il nostro medico? 800 24 00 24, l'esperto risponde a cuore denari. Allora andiamo a Moreno, che ci chiama da Modena. Buongiorno Moreno. Buongiorno, volevo sapere, avere un'informazione. Sì. Dato che io ho fatto la ristrutturazione della casa e ho fatto le finestre e la porta blindata e mi hanno dato le detrazioni, ho già finito. Adesso volevo fare anche le porte interne. C'è la detrazione anche per le porte interne o devo fare qualcosa? Cioè, c'è la detrazione, rimane la detrazione anche per le porte interne. Anche insomma, ci ha preso gusto. Perché poi quando uno inizia a fare un lavoro, certo, è come mettere a posto negli armadi, inizi da un cassetto per metti poi a posto. E poi si allarga. Allora si è allargato un po' il nostro amico. Purtroppo no, perché le porte interne sono una di quelle componenti che non beneficiano né della detrazione per quanto riguarda la ristrutturazione, perché non sono opere murarie in senso proprio, né di un'altra agevolazione di cui non abbiamo ancora parlato, ma su cui volendo si può fare un accenno, che è il cosiddetto bonus mobili, cioè un'altra detrazione sempre del 50% che riguarda l'acquisto degli arredi e di alcuni grandi elettrodomestici. E invece le porte non rientrano. No, e non c'è modo, lui dovrebbe demolire una parete e niente porte. Moreno, vada senza. Marco dalla provincia di Forlì Cesena, buongiorno. Buongiorno Marco, terra di piadine? Sì, sicuramente. Noi abbiamo Isotta Scenna, io lavoro con lei, che insomma la sa lunga perché è dalle sue parti. Marco, allora, non di piadine, ma di di ristrutturazioni. Allora, il vialetto che conduce al garage di casa è franato e quindi va ripristinato. Questa tipologia di lavori rientra nel bonus? Cristiano, allora diciamo in linea di massima sì, le detrazioni riguardano le ristrutturazioni domestiche, qui però siamo nell'ambito comunque di un'area pertinenziale dell'abitazione, è un'area d'accesso, quindi direi di sì, in linea di principio sì. Quindi garage, anche cantine, solai, tutto quello che è intorno, allora, alla casa fa parte della casa e può esattamente. Questi rientriamo nell'abitazione, si può pensare per esempio al sottotetto, per dire, sono quelle aree diciamo a stretto servizio dell'unità abitativa residenziale. Anche se il garage è separato dalla casa e si accede da un vialetto? In linea di principio sì, poi bisogna vedere nel caso specifico, ma da quello che sappiamo direi senti, di sì. Senti Cristiano, prima abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di dirci cosa vogliono ristrutturare, quanto spenderebbero e quando lo farebbero, ma io voglio con te anche parlare del come si ottengono questi bonus. Sì. Allora io decido di fare un lavoro, a quel punto devo conservare un documento che attesti la spesa, poi indicare una dichiarazione dei redditi, insomma ripetiamo un po' questo iter perché uno si perde un passaggio e certo, va tutto in fumo. Certo. Allora la prima cosa è essere in regola con la documentazione edilizia. Sì. In molti casi questi lavori non richiedono nemmeno una SCIA, potrebbero ricadere in attività edilizia libera, nel senso che il comune non vuole nulla come documentazione, perché poi qui cambia anche un po' in base alle prassi locali, quindi va fatta una verifica allo sportello dell'edilizia comunale. Potrebbero volere una comunicazione al comune di quelle che si fanno in carta libera, oppure una comunicazione asseverata, che vuol dire una comunicazione preparata da un geometra con allegato il progetto e alcuni documenti. Questo in base alla tipologia del lavoro ed è un primo passaggio da fare. Dopodiché servono le fatture dei lavori con una descrizione ordinaria, non serve una descrizione particolare, sì, va bene, le fatture normali vanno conservate. Poi è molto importante il pagamento, perché il pagamento deve avvenire necessariamente con bonifico, ma non con un bonifico normale, con uno di quelli che vengono chiamati bonifici parlanti, sì, cioè è un bonifico particolare per le agevolazioni fiscali, si chiama proprio modello agevolazioni fiscali, ed è un bonifico che contiene il codice fiscale del contribuente, la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa che ha fatto i lavori e la causale, che vuol dire sostanzialmente l'indicazione del riferimento della legge, che poi spesso è già prestampata o si prende dal modello. Abbiamo detto tutto, grazie Cristiano, devi tornare perché torneremo. Qua le ristrutturazioni, come si dice, no? Contagiano. Noi ci sentiamo domani e come sempre alle 11, buonissima giornata da Nicoletta.